In questa storia ci sono due cappelli. Sotto i cappelli ci sono due personaggi. Uno è uno studente fuori sede che crede di essere il sindaco di un municipio che non c'è. O forse un sindaco che crede di essere fuori sede perché va in Francia. L'altro è uno studente che crede di essere fuori sede, ma in realtà una sede non l'ha mai avuta. E che, per compensare l'assenza di radici, o meglio, la presenza di radici aeree, ha ben pensato di diventare il portavoce del sindaco di un municipio che non c'è. Thank you.